La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ancora insieme, La Rosa Purpurea, un saluto, una buona Pasqua ai nostri ascoltatori. Siamo nel weekend pasquale, weekend lungo con il giorno di Pasquetta, e visto che il tempo non è che stia proprio, diciamo, facendo sbocciare un'estate anticipata, diciamo così, ci sono buone speranze da parte di chi di cinema ci campa per pensare che al cinema ci si possa andare anche in questo lungo ponte. E in effetti il prodotto nuovo ce n'è tanto in sala. Noi abbiamo messo insieme 5 nuovi film di cui vogliamo parlarvi, e allora cominciamo subito a riepilogare quelli che sono i temi, i contenuti della trasmissione nei nostri titoli di testa. Un giorno devi andare, quasi un mantra al nuovo film di Giorgio Diritti. Una giovane donna in crisi esistenziale parte per l'Amazzonia cercando prima Dio, poi se stessa, fra la grandiosità del Rio delle Amazzoni e lo squallore delle favelas. Un nuovo film dipinto dal regista dell'Uomo che verrà. Alla Rosa Purpurea, Giorgio Diritti e la protagonista Jasmine Trinca. Una civiltà aliena si è impadronita della Terra e dei terrestri, entrando nei loro corpi, perseguendo un nuovo ordine mondiale. Ma un manipolo di ribelli si oppone alla fine dell'umanità, grazie anche a un'aliena innamorata. È la trama di The Host, il film tratto dal romanzo di Stephanie Meyer, l'autrice di Twilight. Due bambini nati la notte del 15 agosto 1947, mentre l'India dichiarava l'indipendenza dall'impero britannico. Lo scambio nella culla e due destini che si incrociano nei sogni con quelli di tutti gli altri bambini nati nelle stesse ore. È il plot de I figli della mezzanotte, singolare affresco della storia dell'India recente, firmato da Deepa Mehta e tratto dal romanzo di Salman Rushdie. Channing Tatum e Bruce Willis nel cast di G.I. Joe, la vendetta, il sequel del film ispirato ai celebri giocattoli per maschietti degli anni 60. Questa volta gli agenti speciali si scontreranno non solo con il terribile Cobra, ma anche con un governo finito nelle mani del nemico, per provare a bissare i 300 milioni di dollari incassati dal primo episodio della saga. E quindi, insomma, ricco carnea, La Rosa Purpurea, ospiti, come sempre il nostro gioco, la nostra pagina Facebook, tante modalità per stare insieme, almeno in quest'ora di cinema che comincia con la cosa più leggera, più light, se vogliamo, della settimana, questo G.I. Joe, il secondo episodio, La Vendetta, il sequel del film che qualche anno fa era stato il nuovo esperimento della Hasbro, casa specializzata in giocattoli, che dopo Transformers aveva portato al cinema un altro gioco mitico per maschietti anni 60, ovvero appunto G.I. Joe. Arriva il sequel sulla forza del successo del primo film, che al di là della qualità aveva incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Abbiamo mandato la nostra Chiara Pizzimenti, l'avanscoperta scoperta con l'elmetto al cinema per vedere G.I. Joe, la vendetta. Vuoi un ruolo decisivo? State pronti, andiamo! Rischi la vita per un mondo migliore. Ma certe cose non te le aspetti davvero. La vigilanza è in anticipo. Oggi il reparto combattente d'élite ha tradito la nostra nazione. Su mio ordine, i G.I. Joe sono stati totalmente eliminati. In realtà è tutto il contrario. È colui che guida la nazione che ha tradito il reparto d'élite, i G.I. Joe. Effettivamente non è il vero presidente degli Stati Uniti, però, ma uno dei Cobra, il malvagio Zartan, che ha preso il posto del vero inquilino della Casa Bianca. Colleghi leader mondiali, la nostra nazione è in guerra. Questo è un avanzato sistema di armamenti che può annientare i vostri paesi per 14 volte. Per farlo basta spingere un solo pulsante. Boom. Dobbiamo pensare di non poterci fidare di nessuno. Però c'è un uomo. Stai bene? Sì, tu stai bene? Ho il colesterolo. Oltre ai Joe superstiti, arriva infatti il Joe originale, quello che ha dato nome e forma al corpo speciale. Qui ha la faccia di Bruce Willis, che si unisce al gruppo e al guerriero Snake Eyes, perché il mondo non si salva da solo. Amen. Il film segue G.I. Joe, la nascita dei Cobra del 2009 e ovviamente si ispira ai personaggi, tutti muscoli e combattimenti della Hasbro, soprattutto negli Stati Uniti il corrispondente maschile delle Barbie. Torna Channing Tatum come nel primo film, ma solo per poco, qui il vero protagonista è Dwayne The Rock Johnson. Un film che è tutta azione, si gira a mezzo mondo e che è adatto soprattutto ad adepti dei Joe e amanti del genere. Il meglio sta proprio nelle sequenze action girate da John Chu, che viene dalla serie Step Up, e si vede nel movimento, che sembra organizzato come un balletto. Per una volta il 3D è utile e fa sentire lo spettatore come in un videogame. Questi personaggi molto misteriosi, molto mascherati, poi il genere di film molto dinamico, molta azione. Scenografia anche. No, un film azione, quindi anche bellissimo comunque. E questo era allora il racconto di G.I. Joe da parte della nostra Chiara Pizzimenti. Noi diamo un'occhiata a come stanno le cose in classifica, prima di questo weekend ovviamente, dove arriva l'ondata dei Croods, che conquistano subito il primo posto in classifica con poco più di 3 milioni di euro in Italia e anche negli Stati Uniti, 44 milioni di dollari nel primo weekend. Insomma, la storia animata di questa famiglia primitiva ha sicuramente fatto centro. Buona partenza in Italia anche per Benvenuto Presidente, con Claudio Bisio, presidente per caso, con 2 milioni e mezzo nel primo weekend. Scivola al terzo posto, dove dopo tre settimane di dominio, il grande e potente Oz di Sam Raimi, che però di milioni ne ha portati a casa fino adesso 7 in tutto dall'inizio del suo sfruttamento. Quarto posto e quinto posto per due nuove entrate, Gli amanti passeggeri di Almodovar al quarto e La madre, l'horror di Andres Muschietti, La madre al quinto posto. La rosa purpurea. Questo è l'inizio di una storia d'amore e fin qui non c'è niente di speciale, se non fosse che siamo nel futuro e l'umanità è tutt'altro che estinta. Siamo stati invasi da una specie aliena che ha cancellato le nostre menti e preso i nostri corpi. Ma ci sono ancora alcuni di noi che continuano a resistere. E questo è l'antefatto, un po' il punto della situazione da cui muove il film con il quale apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, ovvero The Host. L'ospite era anche il titolo del libro di Stephanie Meyer, romanzo fantascientifico dell'autrice della saga di Twilight, milioni e milioni di dollari e di euro di ogni moneta battuta nel mondo per la saga dei vampiri, che ci ha riprovato e ci riprova con questo The Host, che diventa ovviamente immediatamente un film. Anche qui siamo sicuramente su un piano generazionale, siamo su un piano che parla un pubblico soprattutto giovane, ma direi non solo, e questo forse è già la prima caratteristica, anche un po' il primo pregio di questo film firmato da Andrew Niccol, con Saoirse Ronan, attrice molto molto interessante, con Max Irons, Diane Kruger, William Hart, ben ritornato William Hart, il nostro turista per caso, e tante altre cose, che ritorna al cinema attivo. La premessa ci raccontava di un mondo, la Terra, nella quale siamo agli sgoccioli della razza umana, ma non perché fisicamente noi non si sia più qui a abitare questo bellissimo pianeta, ma perché una entità aliena è arrivata sulla Terra e ci ha invaso, diciamo, da dentro. Non è neanche la prima volta che succede nella vostra storia del cinema, praticamente impadronendosi dei nostri corpi, soprattutto infilandoci dentro la propria anima, la propria intelligenza, cancellando totalmente l'hard disk del nostro cervello, della nostra memoria, e a quel punto muovendo il nostro corpo nonostante noi stessi. Tutto questo è reso visibile nel film dal fatto che gli umani barra alieni, cioè gli umani con dentro l'alieno, hanno l'iride dell'occhio luminescente, e questo è un po' il dato, l'unico tratto dal quale si possono riconoscere. C'è però uno sparuto drappello di umani che ancora non si è arreso, intanto che non è stato colonizzato, diciamo così, da questa entità aliena, ma soprattutto che combatte, fucile alla mano, alla grande, contro questa possibilità che l'umanità come la conosciamo non esista più. A questo gruppo si va ad aggiungere una ragazza che è stata sì colonizzata, ma la cui anima originaria, quella umana, non si è affatto data per vinta, non si è arresa, non è stata sconfitta, non è stata debellata. E anzi, vive all'interno del corpo della protagonista con la doppia voce, quella dell'umana e quella dell'aliena. E chiaramente anche i suoi comportamenti, i suoi atteggiamenti nel momento in cui verrà a contatto con questo gruppo, diciamo, di resistenti, capitanati appunto da un vecchio e saggio William Hart, il suo contratto, dicevo, con questo gruppo sarà ambivalente, sarà da una parte quello dell'aliena, dall'altra quello appunto dell'umana. E questo è un altro dei motivi di interesse di un film che parte, se vogliamo, da una trama molto semplice. Se vogliamo, siamo sempre dalle parti di un mondo di qua, di un mondo di là, di un sopra, di un sotto, di un Romeo, di un Giulietta, ma lo mixa, riesce a dare questa entità, come dicevo, bivalente di questa personalità della protagonista, che muove il film in una maniera forse meno scontata di quello che si potrebbe pensare. I corpi degli umani faticano ad abituarsi. Non sono come gli altri esseri che abbiamo abitato. Le loro emozioni sono potenti. Se la sua volontà è sopravvissuta insieme ai suoi ricordi, potrebbe resistere dall'interno. Boris Sollazzo, un saluto, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Sai che me l'aspettavo peggio questo The Host? Ma molto peggio, guarda, sono d'accordo con te. In verità, Stephanie Meyer, io temevo fosse un marchio di garanzia al negativo. E invece questa sembra la bella copia di Twilight, perché se rimangono alcuni difetti, che però in una diversa tensione narrativa non lo sono poi tanto, come un sostanziale moralismo sessuofobo o sessuomane a seconda, perché poi le due cose si toccano quando vengono portate all'estremo, quindi diciamo con questa tensione sessuale che continuamente viene citata e allo stesso tempo però repressa per diversi motivi. Nel caso dei vampiri era proprio una sorta di rischio di cannibalismo, in questo caso invece appunto l'amare il corpo, l'amare l'anima, l'amare il corpo e l'anima e chi amare in questi casi. E qui c'è secondo me una struttura di racconto e un soggetto molto più interessante, perché rispetto all'integrazione presunta di un vampiro, qui c'è una razza aliena che decide di non uccidere, decide di non invadere con razzi, bombe, armi segrete, ma decide di fatto di invadere proprio i corpi degli ospiti, appunto degli host, dei terrestri. Apparentemente loro la vedono come una simbiosi, parlano di armonia, cioè sarebbe quasi da dire che si è passati dall'esportazione della democrazia all'esportazione dell'anima. Non vogliono uccidere loro, anche se di fatto poi lo fanno con i sentimenti delle persone, e dall'altra parte però i terrestri si sentono chiaramente comunque invasi. E in base a questa contraddizione, cioè in base a questa interessante visione di una forza armata che vorrebbe essere una forza amata, si sviluppa una storia che a mio parere è molto interessante, che ha un target sia adolescenziale, un target sentimentale, ma che in qualche modo usa il genere per dirci anche qualcos'altro. Dipende poi secondo me anche dal fatto, come era nel caso di Twilight, per cui tra il primo capitolo e gli altri quattro c'è un abisso. Il motivo era che nel primo capitolo c'era Katherine Hardwick, che è una regista vera, e negli altri c'erano registi molto più mediocri. In questo caso noi abbiamo Andrew Niccol, che non fa uno dei suoi film migliori, ma che comunque fa un film sensato, quadrato, ben scritto, ben equilibrato, con grandi attori, William Hart, Saoirse Ronan. E quindi devo dire che è un bel film di genere. Chiaramente non stiamo parlando di un film che cambierà la storia, ma sicuramente di un qualcosa che è godibile e allo stesso tempo niente affatto stupido, cioè degli impulsi molto intelligenti. Mi permetto di dire che Hollywood riesce ogni tanto a rovinare tutto anche in questi film così buoni, perché il contro finale in cui in qualche modo bisogna accontentare tutto e tutti è davvero inutile e secondo me spezza la forza invece di un finale che era andato verso una direzione coraggiosa e anche con molto pathos. Gli ultimi 5 minuti in qualche modo smorzano molti degli entusiasmi riguardo al film, però il film a mio parere ha un suo valore molto molto interessante. Molto, molto spesso capita questo, di molti film americani a volte bisognerebbe non vedere gli ultimi 5 minuti, che sono la concessione di solito alle major, agli studios, al mainstream, eccetera eccetera. Voglio anche sottolineare, prima di passare alla prima traccia del nostro DVD game di oggi, l'aspetto estetico di questo film, perché questo The Host crea un'estetica, quella per esempio in latex bianco con cui sono vestiti, o comunque in tenute smaglianti, bianche, con cui sono vestiti appunto gli alieni, virgolette, poliziotti, che è un po' un contrario del nero Gestapo, ma in questo caso fa molto Gestapo lo stesso, e poi la creazione di questo mondo sotterraneo, di questa sorta di caverna nella quale i partigiani, chiamiamoli così, i resistenti vivono, con questo enorme campo di grano al coperto, illuminato dai pannelli solari, dai pannelli luminosi. C'è uno sforzo di creazione di un immaginario che, devo dire, è sicuramente molto molto riuscito. Allora, questo era The Host, a mio modo di vedere forse uno dei consigli migliori di questa settimana. Noi dobbiamo giochiamo insieme, come sempre, tre frammenti di un film che dovete riconoscere per provare a vincere una copia. Qualcuno ci dice: ma ho vinto lo stesso, dovremmo aprire una videoteca. Noi abbiamo a disposizione una copia per il sabato e una per la domenica di questo film. Io parlo, come, perché tanto io comunista non diventerò mai, mai, perché sono per la libertà, io, hai capito? E a me mi piace il visone, sì, mi piace il visone, e un giorno ce l'avrò perché me lo merito. Provate a indovinare il film per vincere un cofanetto straordinario dedicato a un grande attore. E allora, La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo, mi raccomando, segnate il vostro indirizzo per la spedizione, più tardi avremo altre due possibilità. Nel preciso istante in cui l'India ha ottenuto l'indipendenza, allo scoccare della mezzanotte, io sono venuto al mondo. Mary sapeva di condannare il bambino nato ricco a una vita da povero. Lascia che il ricco sia povero e il povero ricco. E allora, questo è un altro incipit, quello dei Figli della Mezzanotte, un altro dei film che arrivano in sala in questo fine settimana, un film indiano firmato da una grande regista indiana come Deepa Mehta. È un film indiano nell'anima, perché racconta, attraverso l'incredibile, veramente incredibile storia di due bambini scambiati nella culla nella stessa notte del 15 agosto 1947, quando l'India si affrancava dall'impero britannico e diventava indipendente, in quella notte magica, chiamiamola così, della storia indiana, questi due bambini venivano scambiati. Il figlio dei ricchi finiva in una famiglia povera, il figlio dei poveri finiva in una famiglia ricca, ma soprattutto con poteri praticamente paranormali riuscivano a convocarsi tutti i bambini, tutti i figli di quella mezzanotte, a convocarsi ogni tanto in una sorta di riunioni metafisiche, nelle quali provavano a ridisegnare i destini di se stessi, dei loro cari e del loro paese. Insomma, metafore a gogo in questo film, tratto da un libro, forse il libro di maggior successo commerciale di Salman Rushdie, appunto I Figli della Mezzanotte, con la mano registica di un'autrice che fa un cinema antico, se vogliamo, in un certo senso, almeno nelle modalità estetiche, nei ritmi, nel montaggio, ma di grande delicatezza, con un cuore e una passione che sicuramente si vedono ancora anche in questo film. È un film dalle trame intricate, un film che si sviluppa lungo tanti anni di percorso e che vede questi due personaggi poi arrivare a quella che alla fine sarà l'inevitabile resa dei conti, rendersi conto di avere vissuto sostanzialmente l'uno la vita dell'altro, ma nel frattempo ci racconta anche quali sono stati i passaggi che hanno fatto dell'India, prima di diventare il gigante in espansione che è oggi, un paese anche martoriato dalla povertà, dalle guerre, da una serie di calamità. Boris, dicevo, un cinema vecchio, se vogliamo, un po' quello di Deepa Mehta, ma molto molto affascinante. Assolutamente sì, sono d'accordo, un cinema tra l'altro che è profondamente indiano, senza entrare nell'immaginario dello stereotipo e degli archetipi del cinema indiano a cui siamo abituati, insomma. Non è Bollywood, ma è cinema indiano d'autore. È il cinema indiano che, tra l'altro, come ho potuto constatare da diverse interviste, per quanto riguarda il The Millionaire di Danny Boyle, il Trishna di Michael Winterbottom, è stato usato anche dagli europei per cercare di capire un certo tipo di estetica e di etica. È un cinema comunque diverso anche da quello che avevamo visto per quanto riguarda Tipa Meta in passato. Ricordiamo Water, candidato all'Oscar, la trilogia degli elementi. E qui vuole raccontare una sorta di meglio gioventù indiana, con questi figli della mezzanotte, con questi poteri paranormali. Il film è estremamente bizzarro e discontinuo, è lunghissimo, si dipana per la storia della regione di India, Pakistan e Bangladesh per decenni, quindi inevitabilmente ha dei momenti più alti e dei momenti più bassi. Però ha una sorta di magia, di divertimento nel raccontare, anche di coraggio nell'andare oltre la credulità dello spettatore, che secondo me va premiata, perché poi ci si sente cullati come in una di quelle fiabe magari un po' ingenue, ma piene di colori, di spessore, di racconto, di metafore, come dicevi tu. È uno di quei film a cui si perdonano in molti difetti, perché ha anche molti pregi, eccessivo un po' in tutto, con secondo me degli attori molto molto capaci, una mano registica interessante e anche la produzione, che insomma ha avuto il coraggio di affrontare scene molto importanti, la produzione, ricordiamo, curata dal marito di Tipa Meta, David Hamilton. Nel complesso, insomma, è un film che non mi stupirebbe che potrebbe irritare tanti, però allo stesso tempo secondo me può affascinare molti. Possiamo mostrare alla gente un diverso modo di vivere. Un bambino e un paese nati a mezzanotte tanto tempo fa. Le nostre vite sono state, nonostante tutto, atti d'amore. La rosa purpurea. Eccoci ancora qui, La Rosa Purpurea. Vi abbiamo promesso un Colossal, e che Colossal sia, anche se insomma sembra che le cose non siano andate proprio per il meglio per Il Cacciatore di Giganti, che oltre a essere appunto un film sicuramente di ampie pretese produttive, è anche un film che rappresenta un remake di un classico, insomma, dell'azione per giovani, per spettatori giovani. Il Cacciatore di Giganti, quindi, un'antica guerra che torna a interessare i protagonisti di questo film, la mano di una regia importante come quella di Bryan Singer. Ascoltiamo questa clip tratta dal trailer e poi ne parliamo con Boris. Da cosa siete in fuga? Chi ha detto che sono in fuga da qualcosa? Forse corro verso qualcosa, forse cerco un'avventura tutta mia. La nostra missione è salvare la principessa. Mi offro volontario. Hai paura del vuoto? No, di cadere. Allora non cadere. Spero che vostra figlia trovi la strada per scendere. E se qualcun altro calasse giù prima di lei? Siamo finalmente tornati a casa. Boris, dicevamo, le cose forse poi non sono andate come ci si aspettava da questo remake, nonostante la presenza di Bryan Singer. No, nonostante la presenza di tanti, compresa quella di Bryan Singer, che francamente davvero sembra averlo solo firmato, ma non filmato, volendo giocare con le parole, perché non solo non sembra un film suo, ma sembra veramente contrario a tutto quello che ci aveva fatto vedere fino adesso. La storia è esile, il racconto, insomma, francamente poco coerente di questo reame che se l'è vista con dei giganti scesi attraverso il famoso seme del fagiolo che arriva fino al cielo, e alcuni di questi, appunto, di questi semi sono stati conservati dal re che li aveva sconfitti, e c'è una corona che di fatto è una sorta di telecomando per spegnere la volontà di espansione di questi giganti. Questo è tutto quello che c'è da dire riguardo la trama. Il resto, che cosa dire? C'è una regia, appunto, assolutamente senza personalità. Ci sono attori decisamente scarsi, dalla decorativa Eleanor Tomlinson, che avevamo già visto in Educazione Siberiana, a Nicholas Hoult, che abbiamo visto in Warm Bodies quando era piccolo, in About a Boy, sempre senza che ci avesse sconvolto la vita per le sue interpretazioni, Ewan McGregor, che c'è da sospettare che ormai scelga le parti a seconda del costume bizzarro che si può portare a casa. E per il resto che c'è da dire? Non ci si appassiona, forse ecco, l'unico aspetto positivo può essere il 3D, che in questo caso è un simpatico giocherellone, ma viene fatto tecnicamente bene. Per il resto l'unica cosa che si può trovare interessante del Cacciatore di Giganti è l'umorismo involontario, che a volte esplode e fa sorridere non poco, specialmente nelle scene d'azione, ma sembra davvero troppo poco. Il resto è scopiazzatura, penso per esempio al gigante con due teste, che di fatto ha un Gollum installato sulla spalla, o del suo rivale gigante che assomiglia a un Lenny Kravitz alto 10 metri, però insomma veramente poca roba. E allora, questo era il Cacciatore di Giganti, insomma, questo fu, potremmo dire, dati i toni da stroncatura, ma insomma il film davvero non merita molto di più. Grazie Boris e ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. E allora siamo ancora al momento di giocare insieme con in palio un cofanetto per il sabato e uno per la domenica dell'attore, quindi non solo con un film, dell'attore che però ha interpretato questo film. Ma noi lo diciamo chiaro ai dirigenti e ai padroni della BAM, che se non si rimangiano le loro sospensioni, noi uniti, sposteremo la lotta su un piano più duro! E allora di che film si tratta? Diteci il titolo di questo film per vincere però questo straordinario cofanetto di questo grandissimo attore, la Rosa Purpurea @radio24.it, vostro nome, cognome e indirizzo e più tardi l'ultima traccia. E allora siamo arrivati all'ultima delle proposte che abbiamo selezionato per voi per questa settimana, in mezzo alla quasi decina di film nuovi che arrivano in sala. Vogliamo chiudere con il cinema italiano, con il grande cinema italiano d'autore, perché arriva nelle sale il nuovo film, il terzo lungometraggio di finzione di Giorgio Diritti. Giorgio Diritti, che molti di voi ormai conoscono, autore sicuramente non di primissimo pelo, documentarista, grande esperienza, che però qualche anno fa esplode con un caso, un film caso che si chiamava Il vento fa il suo giro. Questo film in un solo cinema di Milano, il Mexico, ha una tenitura praticamente di un anno, diventa un vero e proprio caso, comincia a girare l'Italia, comincia a girare i festival. Giorgio Diritti diventa un regista molto ambito, tanto che firma L'uomo che verrà. Siamo lì invece in zona partigiana, in zona seconda guerra mondiale, in zona resistenza, ma sempre con il rigore, con l'amore per le immagini, per il racconto per immagini che contraddistingue il cinema di Giorgio Diritti. E adesso il terzo film, che si intitola appunto Un giorno devi andare. Nei nostri titoli abbiamo detto quasi un mantra, quasi una sorta di, così, di obiettivo, di cosa, di frase che ci si può continuare a ripetere come se fosse l'ineluttabile. In realtà proprio l'ineluttabile è uno degli elementi di questo film, che si svolge praticamente tutto, anche se ha un controcanto italiano, nella foresta amazzonica o comunque nel Brasile vicino al Rio delle Amazzoni, fra il grande fiume, le comunità indios che ci vivono vicino, la città e le favelas soprattutto di Manaus, per raccontare la storia di Augusta, una donna giovane, donna italiana, 30 anni, qualcosa nella sua vita non ha funzionato, lei sicuramente è ormai pronta, anzi mette in discussione le proprie certezze occidentali, chiamiamole così, prende e parte e va con una suora molto attiva nelle missioni per aiutare, per cercare di dare una mano, per cercare di sentire utile se stessa e di capire, cogliere, toccare con mano l'umanità degli altri. Va laddove c'è bisogno, le cose si cambiano, dice a un certo punto una frase del film, andando dove c'è bisogno di cambiarle, non teorizzando. La sua piccola barca, le immagini sontuose di questo Rio delle Amazzoni, che è un vero e proprio mare, che ci regala Giorgio Diritti, di questa foresta dove c'è un silenzio che non è spiegabile nel nostro mondo occidentale, sono lo sfondo di questa azione. Però a un certo punto tutta questa spiritualità accanto a questa suora, il tentativo di evangelizzare i popoli locali, di aiutarli attraverso la parola di Dio, sembra essere troppo poco. A un certo punto Augusta, interpretata da una bravissima Jasmine Trinca, dice: qui c'è bisogno di terra, ho bisogno di terra, ho bisogno di vedere l'altra parte dell'aiuto, quello appunto ultraterreno, molto molto legato alla concretezza. E allora il trasferimento a Manaus, nella favela, in mezzo allo squallore, in mezzo alle vite buttate via dei giovani, alle ragazze madri di 12-13

Beh, riassume bene la parola viaggio, tutto quello che abbiamo vissuto e dalla preparazione anche di questo film. Poi Giorgio aveva già avuto un incontro con questo posto e invece io sono arrivata, come dire, proprio senza sapere cosa ci sarebbe stato, e devo dire, questo non grazie a me, però l'integrazione è stata straordinaria. Già nella prima fase di lavorazione del film siamo stati nell'Alto Rio Negro, in un villaggio Sateremawe, lavorando con degli indios, e c'è stata un'accoglienza, diciamo, inimmaginabile. Poi le immagini rendono bene un aspetto che è un aspetto esteriore, ma ad esempio l'aspetto dell'energia di quel posto, io spero che in qualche modo passerà, però tra l'altro una cosa che mi ha colpito moltissimo la prima volta che sono stata sul fiume è che quando le barche spengono i motori rimane un silenzio, che non è un silenzio a noi cioè leggibile, qualcosa di oltre, che riguarda veramente la natura, la forza, l'energia della terra. Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere, devi sperare. De beijos e de te envolver até me padecer de todo fenestro. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea, quarta parte, visioni domestiche, cinema da vedere in casa, insieme agli amici di Film TV. Come sempre abbiamo selezionato un paio di consigli dai palinsesti della prossima settimana, e visto che è Pasqua cominceremo da un film molto pasquale, ma prima voglio salutare Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Dicevamo, film molto pasquale, La Passione di Carlo Mazzacurati, davvero nel momento giusto arriva, anche per ricordarci un certo modo di cucire cinema da parte di questo autore, sempre capace di mixare l'Italia e la commedia. Sì, assolutamente, tra l'altro oggi trattiamo due film che hanno qualcosa in comune perché parlano entrambi di due registi. Iniziamo appunto con La Passione su Rai Movie alle 21:15 di martedì. Gianni Dubois, regista da anni inattivo, ha la possibilità di dirigere una giovane stella della TV, ma non riesce a farsi venire in mente una storia. In più, una perdita d'acqua nel suo appartamento in Toscana rovina un affresco del Cinquecento nella chiesetta adiacente. Per evitare la denuncia, Gianni accetta la proposta del sindaco del paese, ovvero dirigere la sacra rappresentazione del Venerdì Santo. È un piccolo gioiellino che ondeggia tra commedia e poesia, dove non mancano l'ambizione né alcune folgoranti battute, e che si regge soprattutto sulle interpretazioni del cast, da Silvio Orlando a Battistone fino a un Guzzanti che fa una macchietta che però conquista assolutamente il pubblico. E allora La Passione di Carlo Mazzacurati, martedì 2 aprile 21:15 su Rai Movie. E invece l'altro regista di cui ci parlava Giulio San Giorgio è il protagonista di Perché si uccide un magistrato di Damiano Damiani. Esattamente, che verrà trasmesso mercoledì alle 9:45 di mattina su Iris. Dopo aver raccolto precise informazioni da un amico commissario di polizia, da un giornale scandalistico e da un costruttore mafioso, il giovane regista Giacomo Solaris gira inchiesta sul Palazzo di Giustizia e lo presenta a Palermo, suscitando grandissimo scalpore. Infatti il film ritrae chiaramente la figura e le malafatte di Alberto Traini, un alto magistrato che di lì a poco viene ucciso. Oppresso dai sensi di colpa, Solari si indaga. È uno dei migliori film di Damiani, senza simbolismi, intellettualismi o appesantimenti cerebrali, uno di quei film secchi ed essenziali che si facevano negli anni 70, dove si riusciva a sposare sia il cinema di genere sia il cinema civile. Ed è anche un grande omaggio a Damiano Damiani, scomparso all'età di 91 anni il 7 marzo di quest'anno a Roma. E quindi, insomma, importante anche vedere questo film, Perché si uccide un magistrato, mercoledì 3 aprile alle 9:45 del mattino su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio, una buona Pasqua anche a tutti gli amici di Film TV. Grazie a te Franco, un augurio ai radioascoltatori. Ebbene, siamo come sempre tanti consigli interessanti da Film TV. E allora, terza traccia del nostro film misterioso di oggi. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, sono concentrato. Io ho una tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo. La Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta, di che attore, se potete, anche visto che è proprio di questo attore che vi regaleremo un cofanetto straordinario di film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo. Voi mettete come sempre titolo del film e vostro indirizzo. Andiamo a sentire un po' cosa vi avevamo proposto 7 giorni fa. Hai avuto un rapporto sessuale con una tua collega sopra prodotti alimentari che noi vendiamo al pubblico. La settimana scorsa l'ho trombata con una zucchina e poi l'ho venduta a una famiglia con 4 bambini piccoli. Ci vuole fegato. A noi occorre fegato. Perciò ti promuovo. Tu hai un sacco di problemi, lo sai? Politicamente totalmente scorretto dall'inizio alla fine. Si trattava di Ted, l'orso più volgare della storia del cinema, l'orsacchiotto di peluche, ma insomma con la capacità di essere più che umano, assolutamente. Questo era il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana in edizione Blu-ray, in alta definizione. Hanno indovinato per primi, hanno vinto Alfredo Balconi di Cesano Maderno, provincia di Milano, e Ciro Masinelli di Bologna. Saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray di Ted, di cui ci facciamo raccontare tutto dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, da Universal, l'edizione Home Video, di cui noi consigliamo il Blu-ray per godere appieno della qualità video dell'opera. In questo caso è più ricca rispetto al DVD, anche l'offerta audio con traccia DTS eccellente per l'italiano e la DTS ad alta risoluzione con resa da Sala Cinema per l'inglese. Tra gli extra segnalo scene eliminate, ciak alternativi. Ci sono 3 approfondimenti sulla lavorazione con focus sull'elaborazione digitale che ha reso praticamente vivo l'orsetto Ted, ma su tutto sicuramente il divertente commento al film da parte dell'attore Mark Wahlberg in compagnia del regista. Allora, questo era Ted, il nostro game della scorsa settimana. Andiamo invece alle segnalazioni, alle novità in un video di questa settimana, di questo periodo, con l'ultima produzione realizzata da Clint Eastwood, di nuovo in gioco. C'è soltanto uno scout in tutta l'organizzazione, o meglio in tutto il baseball, che non utilizza questa tecnologia. Sarà per questo che hai ingaggiato solo 3 ragazzi negli ultimi 4 anni? Non è un supermercato dove entri e scegli quello che vuoi. Magari non c'è niente in giro, magari la sua zona è scarsa. Billy Clark dei Iron Braves? Non l'ha trovato lui? Sì, e non funziona. Il ragazzo è un bel po' in crisi. Ne verrà fuori presto. Gas può avvistare talenti da un aereo. Spero solo di non perdere niente, tutto qua. Gas ha una bella età. Gas è un vecchio scout che ha passato la vita a scovare stelle in erba del baseball. Con un contratto agli sgoccioli, l'età avanzata e gli occhi che non sono più quelli di una volta, il cacciatore di talenti sa di essere in difficoltà, ma non vuole ammetterlo. In suo aiuto arriverà un vecchio amico che convincerà la figlia, lontana da tempo dal padre, non solo per motivi lavorativi, a riavvicinarsi al genitore riallacciando un rapporto che sembrava spezzato. Nonostante la presenza di un colosso del cinema americano come Clint Eastwood, il film, diretto da Robert Lawrence, suo collaboratore di lungo corso, stenta a coinvolgere, forse perché troppo impegnato a cercare lo stile asciutto del maestro, finendo per realizzare una pellicola tra buonismi e prevedibilità. L'edizione di Warner Home Video è di eccellente qualità, con immagini da sala cinema per il Blu-ray, che offre tra l'altro la medesima traccia Dolby Digital multicanale per l'italiano presente nel DVD, mentre almeno per l'inglese abbiamo una DTS ad alta risoluzione. Come extra sono presenti 2 brevi approfondimenti sulla lavorazione. Indietro nel tempo invece, per l'ultima segnalazione di questa settimana, un film che però è diventato rapidamente un classico, 1999, David Fincher dirige Fight Club. 1537 di Paper Street è il nostro quartier generale. Sul retro, seppellito nel giardino, troverà il corpo di Robert Paulson. Nello scantinato troverà delle vasche da bagno usate molto recentemente per fare grandi quantità di nitroglicerina. Penso che il piano sia far saltare in aria le sedi delle società di carte di credito e il palazzo della TRW. Perché questi edifici? Perché le società di carte di credito? Se si cancella la traccia dei debiti, allora torniamo tutti a zero. Si crea il caos totale. Consulente assicurativo di una casa automobilistica soffre per una vita stressata e insonne. Durante i suoi costanti spostamenti in aereo incontrerà Tyler, eccentrico venditore di sapone con cui stringerà una malsana amicizia che lo spingerà sino all'autodistruzione. Dal romanzo culto dello scrittore Chuck Palahniuk, la critica feroce alla società, mettendone in luce i lati più oscuri e malati dell'alienato uomo moderno. Uscita fuori catalogo la prima edizione Medusa, è ora disponibile quella di 20th Century Fox Home Entertainment, giunta in occasione del 10° anniversario della pellicola. eccellente qualità di immagine, audio DTS per l'italiano e DTS ad alta risoluzione solo per l'inglese. Tra gli extra di volume inferiore rispetto alla prima edizione italiana, segnalo un incontro del regista insieme a Edward Norton e Brad Pitt con il pubblico per il 10° anniversario, ci sono scene tagliate alternative, approfondimenti sulla lavorazione, compresi gli effetti visivi e un video musicale. A confronto con l'edizione americana abbiamo scoperto mancanti 4 importanti commenti al film. Allora, grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. Le note della sigla ci dicono che siamo alla fine della nostra corsa, della nostra ora di cinema. Non mi resta che ricordarvi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi al nostro gruppone, alla nostra community sempre più folta. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggi in regia. Un saluto da Franco D'Assisi.